GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Minacce di sabotaggio alla base di Aviano a poche ore dal vertice in Alaska tra Trump e Putin. Ne dà notizia il Corriere della Sera. Il prefetto: non abbiamo dichiarazioni da fare. Due incidenti all'alba sulle strade del Friuli, un 22enne ricoverato per fratture multiple dopo un frontale a Campoformido, un'auto con 5 bambini a bordo si è invece capottata sulla A23. Il caldo spinge tanta gente in montagna, a Piancavallo numerosi anche i turisti di giornata, tutto esaurito negli alberghi e ristoranti pieni. Oggi sono aperti tutti i musei statali, dal Castello di Miramare al Museo Archeologico di Aquileia, quello di Cividale. Siamo andati nella città ducale. Successo inarrestabile per la ciclovia Alpe Adria, che ora si è arricchita di un nuovo itinerario collaterale, una deviazione lunga circa 7 chilometri che si inoltra in Valresia. È successo ieri sera anche nel Duomo di Valvasone per il concerto che ha suggellato la residenza artistica della Gustav Mahler Jugend Orchester a Pordenone. Le 12.31, ancora buon Ferragosto da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Gli occhi del mondo sono puntati sull'incontro in Alaska oggi tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Il vertice dal quale tutti speriamo possa arrivare l'inizio del processo di pace in Ucraina si terrà alle 21, ora italiana. Nell'esaminare il punto di vista del governo italiano sui possibili sviluppi dell'atteso incontro, il Corriere della Sera dà notizia di una minaccia di sabotaggio da parte russa alla base militare di Aviano. Secondo altre fonti, la minaccia, che consisterebbe in una serie di azioni incendiarie nei boschi vicini alla struttura e nel coinvolgimento di una donna che avrebbe avuto il compito di fare foto e riprese video, proverrebbe invece dal movimento No Base, che si batte contro la costruzione di nuovi basi militari. Interpellato sulla vicenda, il prefetto di Pordenone non ha smentito, ma si è limitato a dire: non abbiamo dichiarazioni da fare a riguardo. I vigili del fuoco di Pordenone, dal canto loro, assicurano di non essere intervenuti in questi giorni per incendi nei pressi della base. Incidente stradale all'alba di oggi a Campoformido. Due auto guidate da persone del posto si sono scontrate frontalmente ad alta velocità. Uno dei due autisti, un 22enne, dopo essere stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stato ricoverato per diverse fratture all'ospedale di Udine. Nessuna conseguenza grave per il conducente dell'altra auto, anch'egli del posto. Un'auto con a bordo 8 persone, di cui 5 bambini, si è capottata la notte scorsa sull'autostrada A23 Palmanova-Tarvisio e miracolosamente soltanto uno degli occupati, una donna, ha dovuto fare ricorso alle cure mediche. È accaduto nella corsia in direzione Palmanova tra le uscite di Pontebba e Carnia poco prima delle 4 del mattino. Per cause che saranno individuate dalla polizia stradale, l'automobilista ha perso il controllo e la vettura si è ribaltata mentre percorreva la galleria a Zanier, finendo la corsa sul tetto e con le gomme in aria senza coinvolgere altri veicoli. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno liberato dalle lamiere, aiutandoli a uscire dall'auto, i 3 adulti e i 5 bambini che si trovavano all'interno. Tutti sono stati visitati sul posto dal personale sanitario, che ha trasportato all'ospedale soltanto una donna. Come detto, la galleria è stata normalmente riaperta dopo che i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato e l'area del sinistro. 12.34, passiamo al meteo. Il cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 32 gradi, il mare mosso con temperatura di 25 gradi, a Gorizia e Udine 34, a Pordenone 32 gradi. In Aramontana, Piancavallo e Tarvisio 25, Sappada 24 gradi, Forni di Sopra 26 gradi e 5 decimi, Tolmezzo 29. In quota sul Monte Lussare e sul Monte Zoncolan 19 gradi, sulla costa Legnano 30 gradi e mezzo, la temperatura del mare di 27 gradi, a Grado 33 gradi e mezzo, la temperatura del mare di 26 gradi. Le previsioni: questo pomeriggio avremo cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti, dove non sarà esclusa del tutto la possibilità di qualche locale rovescio o temporale di calore, più probabile eventualmente verso il Cadore. Sulla costa soffierà borino in calo nel pomeriggio sera, farà ancora caldo. Domani invece al mattino cielo poco nuvoloso, poi variabilità sui monti, probabile qualche rovescio o temporale di calore che poi potrà interessare qualche località di pianura anche con qualche raffica di vento. In pianura farà ancora caldo, sulla costa soffierà borino. E in buona parte della regione il termometro sta superando in queste ore i 30 gradi. Il caldo sta spingendo molte persone in montagna, anche solo per una gita di un giorno. Siamo andati a Piancavallo, dove è iniziato un lungo weekend di eventi. Tanti turisti di giornata e gli sportivi. Gli hotel sono al completo, consentendo il recupero di un luglio piovoso. Abbiamo sentito un rappresentante degli imprenditori locali. La località di Piancavallo è già affollata dalla mattina, siamo con Piero Toffoli che è presidente della cooperativa Piancavallo 1265 che riunisce imprenditori locali che gestiscono servizi sportivi e turistici nella località. Come sta andando questo lungo ponte di Ferragosto qui a Piancavallo? Sta andando bene, diciamo che il caldo in pianura ci aiuta, vengono su per scappare dal caldo appunto, qua si sta bene, ogni locale ha una sua iniziativa per i clienti e insomma bene, le prospettive sono buone. Che tipo di turista si trova in questi giorni e com'è la capienza degli alberghi? Sono due turisti diversi, quelli che stanno negli alberghi, che sono quelli che fanno sport, quindi riempiono gli alberghi dal lunedì alla domenica con i camp sportivi, alberghi pieni fino a metà settembre, mentre il turista del weekend è un turista che arriva da un 100 km di raggio da Piancavallo, non soggiorna diciamo. Un luglio non semplice, con tanta pioggia, quanto puntate su questo agosto? Beh, un luglio non semplice che però attraverso lo sport ci ha salvati, puntiamo tanto su Ferragosto, indipendentemente dal fatto che ci sia un weekend lungo, ma dopo puntiamo anche sui clienti stanziali. Piancavallo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche Trieste è piena di turisti e sono molti i bar e i ristoranti aperti a Ferragosto. Sono una cinquantina tra pizzerie, trattorie e ristoranti, una trentina i bar, due invece i ristoranti aperti a Muggia. I numeri vengono dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Trieste, che ha comunicato i nominativi degli esercizi associati che hanno segnalato la loro apertura per il periodo di Ferragosto. L'elenco include quindi solo quanti hanno dato comunicazione e non è completo. Oggi sono aperti anche tutti i musei statali, dal Castello di Miramale al Museo Archeologico di Aquileia. A Cividale il Museo Archeologico Nazionale sarà aperto fino alle 19 e anche le altre strutture cittadine avranno i battenti aperti. Il nostro reportage dalla Città Ducale. È un Ferragosto all'insegna dei musei aperti, quello con cui Cividale accoglie turisti e visitatori che già dal mattino hanno popolato le vie della cittadina. Molte le prenotazioni e i gruppi per le visite guidate all'ipogeo celtico, i suggestivi ambienti scavati nella roccia, la cui vera funzione è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. E diversi anche i visitatori che hanno scelto il museo archeologico e il tempietto longobardo, grandi classici delle visite della città ducale. Che ai turisti ferragostani non solo, però, propone anche l'alternativa dell'arte contemporanea con la collezione della famiglia De Martis, aperta dal 2020 a Palazzo De Nordis e che il pubblico, raccontano le guide, sta cominciando a scoprire e apprezzare sempre di più. Così come accade al Museo dei Burattini dedicato a Vittorio Podrecca e Maria Signorelli. Tra i turisti arrivati a Cividale per questa giornata festiva non mancano quelli stranieri e quelli arrivati in bicicletta, deviando dal percorso della ciclovia Alpe Adria. Gite di giornata, spiegano gli organizzatori, sempre più richieste da chi sceglie il Friuli Venezia Giulia per le proprie vacanze. Cividale, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono sbarcati a Trieste i giovani del progetto Mediterraneo di Pace, salpati da Durazzo, si fermeranno in città fino a domenica e promuovono il dialogo fra religioni diverse con un focus sulle persone migranti. Domani pomeriggio è previsto l'incontro con il Vescovo di Trieste a Muggia. Si abbracciano felici di essere arrivati in Italia. Sono i 20 giovani che stanno percorrendo una delle 30 tappe nel Mediterraneo a bordo di una goletta. Arrivano da Palestina, Israele, Libano, Bosnia, Malta, Grecia, Albania, Italia e Nord Africa. È la Scuola della Pace che da marzo a ottobre mette insieme 200 giovani di ogni credo ed estrazione sociale. Taher, dalla Tunisia. Principalmente a bordo parliamo, ci confrontiamo in un continuo dialogo interreligioso. Evstratios, dalla Grecia. Ho scoperto come pensano le persone diverse da me, questa esperienza ci dà una nuova forma. Anfel, dall'Algeria. Incoraggio tutti a partecipare, ti cambia la vita, ti insegna che possiamo creare un dialogo di pace. Ad accoglierli sul molo Audace, Don Sergio Frausin, della diocesi di Trieste. Siamo stati molto attenti anche nel preparare i menù di questi giorni con la Caritas diocesana che farà un po' il catering per questa comitiva. un menù appunto attento agli usi, alle esigenze alimentari delle varie culture, delle varie religioni presenti nell'equipaggio. Un'iniziativa finanziata da decine di associazioni cattoliche e non solo. Come avviene la selezione dei partecipanti? Ma è lì che organizzazione Med 25. Dei giovani che si sono iscritti su il nostro Google Form e abbiamo fatto delle interviste e sono giovani che hanno veramente la voglia di partecipare, che hanno il cuore aperto per provare questa esperienza che è un po' originale. Ripartiranno domenica dopo un fitto programma di incontri. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Aumentano gli appassionati che percorrono la ciclovia Alpe Adria, che ora offre una deviazione che porta verso la Valresia. Il successo inarrestabile della ciclovia Alpe Adria, oltre 200.000 i passaggi sul percorso tra la primavera e l'autunno 2024, con previsioni in crescita anche per quest'anno in un trend ormai consolidato, si è arricchito da qualche mese di un itinerario collaterale dal fascino suggestivo. Si tratta di una deviazione lunga circa 7 km che parte dal comune di Resiutta e si inoltra in Valresia, lungo una delle sponde dell'omonimo torrente, e che, soprattutto in queste settimane estive, inizia a essere scoperta dai ciclisti più intraprendenti. Nikita Peterlunger, della ciclo stazione di Resiutta. Iniziano a chiederci in tanti adesso, ci chiedono informazioni su come prenderla e insomma quelli che l'hanno fatta già gli piace. Il tracciato è stato realizzato con fondi statali della strategia nazionale aree interne e il contributo dei due comuni di Resia e Resiutta. Anna Micelli, sindaca di Resia. È aperta, diciamo così, ufficialmente, nuovamente da metà luglio circa. È molto importante per tutta l'area Resiotaresia che si sviluppa lungo il nostro fiume, perché dà la possibilità di entrare nella nostra comunità in maniera lenta e assaporare proprio le bellezze paesaggistiche. Il percorso costituisce infatti un'occasione unica per entrare nel cuore della riserva UNESCO delle Alpi Giulie, un'area caratterizzata da squarci di natura incontaminata e un altissimo tasso di biodiversità. Stefano Santi, direttore del Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Si sono registrate già diverse migliaia di passaggi, sia di ciclisti sia di escursionisti a piedi, perché è una ciclo escursionistica. Permette già di entrare in contatto con alcuni degli elementi fondamentali della natura di questi luoghi, come possono essere le acque, in maniera particolare le acque del fiume Resia. Resia, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il periodo di Ferragosto è tra i più intensi dell'anno per la polizia stradale, che garantisce la sicurezza sulla rete regionale. Una trentina le pattuglie sul territorio ogni giorno, con circa 80 agenti operativi su strada in centrale. Già da domani i primi rientri del controesodo, che raggiungerà il picco a fine mese. Sentiamo dal commissario capo Ezio Scocco, comandante della stradale di Gorizia, consigli per mettersi al volante in sicurezza. Da domani comincia quello che viene cosiddetto il controesodo, in misura ridotta fra domani e dopodomani. Nel weekend successivo sarà in maniera più massiccia. Diciamo, ci sono due accortezze da seguire per mettersi in sicurezza in viaggio: quella che riguarda il veicolo e quella che riguarda il conducente. Il veicolo, i controlli canonici prima di intraprendere un viaggio, specie se lungo, i pneumatici, la pressione. Adesso ci sono sbalzi di temperatura importanti, quindi la pressione del pneumatico è molto importante. I liquidi, controllo dei liquidi, quello di raffreddamento, i freni, l'olio, tutta una serie, diciamo, di controlli anche economici, non sono controlli costosi, che però riescono a prevenire eventuali guasti meccanici, eventuali problematiche durante il viaggio. Quindi il veicolo sicuramente va attenzionato. Ovviamente, di contro, anche il conducente deve essere adeguatamente idoneo per intraprendere un viaggio, quindi riposato sicuramente, evitare pasti abbondanti, sicuramente evitare il consumo di alcolici durante gli stessi, riposarsi frequentemente, quindi al minimo segnale fermarsi in area di servizio, fare un caffè, prendere una bibita, fare una passeggiata, sgranchirsi le gambe. Laddove possibile, alternare la guida, quindi darsi cambio con un altro conducente, quindi in maniera da avere un conducente sempre pronto al momento dell'esigenza, della tempestività della reazione. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Successo ieri sera nel Duomo di Valvasone per il concerto che ha suggellato la residenza artistica della Gustav Mahler Jugendorchester sotto la direzione di Christian Blacks, fresco vincitore di un riconoscimento internazionale al Festival di Salisburgo. L'orchestra ha proposto un programma musicale tra Gabrieli, Mozart e Bruckner. Gli oltre 100 giovani orchestrali sono al Verdi di Pordenone ancora per un paio di giorni per le prove in vista del prestigioso Summer Tour che li porterà nelle grandi capitali della musica, Salisburgo, Dresda, Amburgo, Amsterdam, Stoccolma, Bucarest e Praga, prima di rientrare a Pordenone per i due grandi concerti del 2 e 3 settembre sotto la direzione del maestro austriaco Manfred Hoeneck, affiancato dal celebre violinista Renaud Capuçon. Il Teatro Verdi di Pordenone e la Gustav Mahler Jugendorchester festeggiano i 10 anni di un sodalizio artistico che ha trasformato la città in un punto di riferimento stabile nel panorama sinfonico europeo. Una notizia di calcio: Atta, Camara e Miller sono 3 giovanissimi centrocampisti che hanno un futuro radioso davanti e che abbiamo avuto la fortuna di ingaggiare anticipando la concorrenza dei grandi club. Sapranno stupire, ne è convinto il direttore tecnico dell'Udinese Gianluca Nani, che ha parlato all'indomani del successo riscosso anche dalla sua società per l'impeccabile organizzazione della Supercoppa europea nella città friulana. Camara è il capitano dell'Under 17 francese. Miller ha collezionato oltre 80 presenze nel massimo campionato scozzese. Atta ci è stato già richiesto da svariate squadre, molte anche blasonate, ha fatto sapere il dirigente della formazione friulana. È chiaro, afferma, che dobbiamo dare loro il tempo di crescere e di maturare, ma ci sono tutti i presupposti affinché diventino dei calciatori in grado di innalzare la qualità dell'Udinese. Entro un paio d'anni potranno calcare, magari assieme a noi, palcoscenici importanti. A 2 settimane esatte dalla chiusura del calciomercato, il direttore ha anche spiegato quali saranno le priorità della società bianconera. Non è un mistero che il reparto offensivo, che ha visto delle uscite, è quello in cui numericamente abbiamo delle caselle da completare, ha affermato il direttore tecnico, ma non c'è fretta, abbiamo le idee chiare, ovviamente siamo poi anche sempre pronti a intervenire qualora si verificassero delle opportunità da cogliere al volo in altre zone nevralgiche del campo. Il reparto offensivo non conterà invece su Sanchez, che da 1 mese e mezzo è separato in casa e non si è mai allenato con Mr. Runjajc, con cui il rapporto è ormai compromesso. Sul Nino ripeto sempre le stesse cose, ha concluso Nani, c'è talmente un bel rapporto tra noi che sapremo trovare la migliore soluzione per tutti. Per l'Udinese Sanchez non sarà mai un problema. Era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia per la parte tecnica è Eugenio Giuffrida, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. A tutti voi grazie per averci seguito, ancora un buon Ferragosto e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.